Ascolteremo molto volentieri la sua voce dall'Austria amica. Prego, professore. Prima di cominciare, vi prego di qualche difetto di pronuncia o di parole sbagliate. Nel aggiungermi a paragonare il discorso 37 di Gregorio, l'unica sua omelia esegetica che noi conosciamo, concernente Matteo 19, verso 1 fino 12, con i corrispondenti passi crisostomici, devo constatare in primo luogo che entro questi limiti ristretti di tempo posso solo prendere in considerazione aspetti parziali di questo discorso e più precisamente soltanto il tema difficile e quanto al suo significato ultimo non spiegato del tutto o non spiegabile del eunuchismos, cioè quello delle tre categorie di eunuchi che in Matteo vengono presentate in forma di parabola da Gesù. La mia intenzione è di porli in parallelo tra di loro i testi fondamentali di Gregorio e del Crisostomo, di interpretarli e di trarne la conclusione sul loro rapporto reciproco, sulle loro convergenze e divergenze. Prendo qui come punto di partenza per le seguenti osservazioni sul tema del eunuchismos il passo dell'orazione 37, capitolo 16. To ec physios agaton adocimon, to de ec proaeresios epaineteon. Purtroppo non dispongo della tradizione italiana e non posso verificare presto la traduzione del greco. Cito in greco qualche passaggio. Prendo qui come... Gregorio si occupa qui evidentemente prima degli eunuchi senso proprio, ai quali tra l'altro si dirige il suo discorso, e poi di quelli nel senso pneumatico allegorico. Nel capitolo 16 Gregorio dunque rivolge la parola prima al gruppo degli eunuchi presenti. Questo fatto in quella epoca in cui gli eunuchi ricoprivano le più alte cariche pubbliche non significava niente di straordinario. Nell'intenzione di negare loro il diritto a essere lodati a causa del loro comportamento, che ha come scopo la condizione di celibe oppure più generalmente l'apatia. Gregorio sostiene la sua affermazione osservando che gli eunuchi sono incitati o piuttosto costretti a questo loro comportamento dalla natura, ma non da un atto di volontà personale. Simultaneamente, però, egli fa loro coraggio osservando che senz'altro essi potrebbero ottenere la gloria se trasferissero il loro stato naturale a livello spirituale e morale, concretamente in direzione dell'ortodossia, e se servassero l'anima pura e contraria alla porneia o moicheia. Questi concetti devono essere riferiti generalmente a ogni specie di vizio. Fermiamoci qui e vediamo come il Crisostomo si esprime su questo ambito di problemi. Innanzitutto consideriamo come fonte della nostra indagine il brano relativo del commento su Matteo, ma ci si presentano inoltre gli scritti crisostomici concernenti il matrimonio e la verginità. Nello scritto su quest'ultima virtù, edizione di Musorilio Grillier, il Crisostomo, Crisostomo nel capitolo 8 vuole dimostrare che certi eretici, i quali rifiutano il matrimonio come qualcosa di male, peccando così nei riguardi di questa istituzione e del suo creatore, certamente non devono vantarsi della loro astinenza, poiché non la assumerebbero né la praticerebbero volontariamente, ma in forza di una legge, agendo così dunque in stato di costrizione. In questo senso egli seguita ad argomentare, per comparare poi le circostanze di fatto con gli eunuchi. Ospergardus eunuchus udeisan epeinesein eis partenias logon hoti me gamusin hutus ude himas hogar ekenois hetes physios ananke tuto himin hetes bonaras synaitesios prolepsis gegone. Gli editori hanno ragione a collegare la menzione degli eunuchi qui col passo del Matteo, rilevando che il Crisostomo qui impiega il concetto nel senso proprio, cioè in quello della mutilazione involontaria. Già a questo punto, senz'altro, possono essere trovati dei paralleli alle dichiarazioni di Gregorio, soprattutto anche rispetto all'atteggiamento positivo in linea di principio di ciascuno dei due padri verso il matrimonio, atteggiamento che viene messo in rilievo dall'uso dello stesso passo biblico, Ebrei 13 verso 4. A queste citazioni aggiungo un passo del commento su Giovanni del Crisostomo, cioè quello della Omelia 36, capitolo 2, dove viene sostenuto altrettanto con riferimento a rigorosi incratiti, e cioè che un'antipatia di natura nei confronti dei rapporti sessuali non merita nessun onore di sorta, poiché la vera castità, sofrusine, consiste nell'astinenza in crateia, o più specificamente nel dominare le concupiscenze. Ci sono molti che sono pigri di natura, e si poloi cae noteis apophysios, chiamare onesti e piecheis, costoro non verrebbe in mente a nessuno. Segue l'esempio biblico degli eunuchi, di cui ci interesseremo più tardi. Più oltre, nel passo citato, si ripete che non dobbiamo ammirare i buoni per natura, tus physiae calus, piuttosto che quelli che lo sono per propria volontà, pro aeresei. E si risponde che colui che si affatica merita la preferenza in confronto a quello che non si affatica. Si tratta sempre, evidentemente, dell'antinomia physiae pro aeresei, o gnome o simili. Altro notevole esempio pertinente al nostro tema presenta il Crisostomo, ugualmente in seguito alla parabola degli eunuchi, nella sua esegesi della parola di Giovanni 5 verso 19, filius ex nihil facit, dove troviamo l'asserzione che la rinuncia ai rapporti sessuali da parte degli eunuchi e da parte di quelli che lo fanno di propria volontà si conclude allo stesso modo per quanto riguarda la cosa o il risultato, ma non per quanto riguarda la finalità. Caetomen pragma hen, tode helos uchen. Un po' prima si parla di allo stesso modo, homoios, per quanto riguarda lo stato esteriore delle cose, cioè l'astinenza dai rapporti sessuali nei due gruppi menzionati, ma soltanto per questo, non per la disposizione d'animo. Ucatac nomen alla catatentu pragmatos physin, come viene espresso in maniera tipicamente crisostomica, ciò che potrei dimostrare nei dettagli. E d'altronde un fenomeno altrettanto caratteristico del Crisostomo e d'altronde un fenomeno altrettanto caratteristico del Crisostomo il fatto che egli suole ripetere volentieri un certo pensiero immediatamente dopo in forma poco modificata. In ogni caso nega anche qui agli eunuchi comuni il premio per la loro astinenza, poiché il loro comportamento è il risultato, dice, della loro natura e per niente affatto espressione di ascesi. Physios gar u gar ascesios do pragma en, come viene detto poi in forma di frase fatta. E esaminando di nuovo lo stato dei fatti, egli mette in rilievo che tanto l'uno quanto l'altro è astinente. Il primo però perché è costretto, l'altro invece sotto l'influsso positivo della sua libera decisione o volontà. Al homen hypotes ananches dedemenos ote de proeresio to pragma catuatosas. La constatazione essenziale che il Crisostomo ricava qui dall'interpretazione del brano di Matteo, a mio parere, è la seguente. Citazione, dal commento sul Matteo di Crisostomo: il tagliare il membro certamente è meno efficace a calmare l'ondata della passione e a procurare la tranquillità che non il freno della ragione. Ha ragione, davvero solo la ragione lo può. Fine della citazione. E anche, citazione, con le parole, coloro che hanno castrati se stessi non si vuol dire il tagliare realmente un membro, Dio ce ne scampi, parla invece dell'eliminare i cattivi pensieri. Fine della citazione. In seguito, il predicatore con parole aspre scende in campo contro l'eunuchismo come mutilazione, qualificandolo tra l'altro come violazione della creazione di Dio e come atto del diavolo. Confronta le osservazioni relative del Moreschini nell'introduzione al discorso 37, pagina 60 della sua edizione. Ciò che collega qui il Crisostomo con Gregorio è l'importanza del logismos o del logos a questo proposito. Confronta in Gregorio i capitoli 11 e 21, soprattutto quest'ultimo dove Gregorio, come il Crisostomo, riconosce come indotta dalla ragione solo la terza forma dell'eunuchismo, cioè quella per amore del regno dei cieli. Che nel castrarsi abbiano un ruolo particolare il sinergismo tra il proprio impulso e la grazia divina è messo in rilievo tanto da Gregorio quanto dal Crisostomo. Il primo nel capitolo 13 e altrove, l'altro ad esempio in De Virginitate, capitolo 27. L'asserzione che questo eunuchismo serve all'eliminazione dei cattivi pensieri, Don Bonaron logismon den anairesin, dice, come dichiarato nel commento su Matteo, è fatta e precisata anche altrove, come nel brano citato dall'omelia in Illud filius exenil facit, capitolo 2, dove il predicatore d'altronde si serve del concetto di logismos nei due significati già esemplificati di pensiero e di ragione, motivo razionale, constatando «Eunuchus en tautafe sin utus da mele copsantas alatus ton ponaron logismon cae aselgeias gemonta apotemontas usidara machaira alla logismo cae filosofia cae tetu deu poetea chesamenus estuto. Si tratta comunque, nei passi crisostomici citati, quando si parla di Enuchitin in senso spirituale, solo e sempre della terza specie presente in Matteo, non altrimenti che anche ad esempio in De Virginitate capitolo 13. Oltre al passo trattato già sopra, Ipidem capitolo 8, con un leggero riferimento al modello biblico. Ma ciò che il Crisostomo nel suo commento a Matteo soltanto accenna, questo nel commento su Giovanni chiaramente esprime, e con ciò ci muoviamo verso il punto centrale della nostra ricerca, vale a dire che l'interpretazione allegorica, per così dire anagogica del passo di Matteo, egli la rifiuta riguardo ai due primi gruppi di eunuchi, mentre la riserva soltanto al terzo gruppo, dicendo: «Dia tutto cae ho Christos treis tropus eunuchismu legon, tus mentio affiesin a Stephanotus, donde henna esten basileian esagei». In questo modo si intende anche il passo del In illud filius ex nihil facit, capitolo 2, con una chiara differenza però, di modo che in questo passo riunisce i due primi gruppi, parlando così solo di due tipi di eunuchi, i tuo eunuche, hoemen ex anthropon apotmetentes tamele, hoede oelapeia apocopsantes ton ponaon logismon. In modo completamente diverso procede Gregorio, il quale, muovendosi nella tradizione originistica, interpreta tutti i tre gruppi spiritualmente, essendo questo, secondo il suo modo di vedere, il metodo più degno e più adatto al tema. Capitolo 20. Indubbiamente anche egli considera la terza specie del eunuchismo la più eccellente, sebbene accanto a questa ammetta anche le due altre. Ti ha tutto epenoton eunuchismon, cioè quello per amore del regno dei cieli, che tichon malon ton alon, come aggiunge con cauta relativizzazione capitolo 21. In fondo però è rilevante per lui soltanto l'osare aggiungersi a questo eunuchizien o eunuchizestae di qualunque specie sia, sia per mezzo di un maestro, con questo si identifica la seconda specie del modello biblico, sia per la propria iniziativa, questa è la terza specie, ipidem. La prima specie non c'entra più, ma pure è inclusa, essendo comprensibile addirittura come presupposto dei due altri eunuchismi. Il punto essenziale dell'atteggiamento di tale eunuchismo certamente è anzitutto la epiteteiotes e poi, in grado ancora più intenso, la proaeresis, come vedremo nella ultima parte della ricerca. Per completare la tematica, ecco un autore latino, San Girolamo, che espone lo stato delle cose chiaramente così. Citazione: «Alios eunuchos natura facit alios vis hominum. Mihi illi eunuchi placent quos castravit non necessitas et voluntas, adversus Jovinianum». Con lui concorda del resto in modo sorprendente lo sconosciuto autore del Opus Imperfectum in Matteum, omilia 32. Citazione: «Sunt eunuchi qui sic nascuntur ex utero matris sue, sunt eunuchi qui ab hominibus fiunt, sed illos tenet necessitas hunc autem tertium coronat voluntas». Nella ultima parte di questa ricerca faccio alcune osservazioni concernenti il capitolo 13 del discorso gregoriano, dove il teologo respinge decisamente tutti tentativi eretici di dividere o classificare gli uomini in tre diversi gruppi di qualità morale e spirituale, riconoscendo certe differenze di grado soltanto rispetto alla disposizione naturale dell'uomo, epitetiotes, al bene. Si confronti a questo proposito l'istruttiva nota riguardante ciò nella nuova edizione. Per quel che riguarda il ruolo della disposizione naturale e del libero arbitrio, è di fatto superfluo far notare che Gregorio in questa materia segue una lunga tradizione risalente perlomeno ai teologi alessandrini, cioè che potrebbe documentarsi con numerosi esempi. Non ha importanza d'altronde la diversa terminologia che si può osservare a proposito del trattamento di questa tematica. Per esempio, Clemente d'Alessandria, precisando lo stato del problema in questione, si serve dei termini proaeresis, ignome, di significato sinonimico, e poi per esprimere la epitetiotes della formulazione alateimen pefikotas pros to agaton. Ecco la variazione con il concetto usuale, almeno in Gregorio, di epitetiotes sputenti na peripoesas dai pros auto. Stromata, libro quinto. Infine, Clemente precisa la sua opinione richiedendo la presenza del giusto atteggiamento o della giusta disposizione, gnomen hye, dice, in cooperazione con la grazia divina, la quale a tale sinergismo dà, secondo l'alessandrino, il colpo decisivo, malista des deas rezumen charitos, eccetera. Altra variante del termine proeresis del resto è protesis, la quale si trova nel Crisostomo e anche in Tito di Postra nel suo scritto contro i manichei, eccetera. E occorre osservare che a questo proposito intervengono altresì i termini logismos e logos, come ho notato già sopra, facenti funzione grosso modo della proaeresis o anche connessi con quella. Il primo caso è quello del capitolo 13, l'altro è quello del capitolo 21 del discorso gregoriano. Tutto questo ho esposto del resto per illustrare il colorito fortemente alessandrino del passo in questione, cioè del capitolo 13, colorito che appare forse anche nel seguente particolare. Clemente asserisce nel brano anzitetto che non tutto dipende dal nostro atteggiamento rispetto all'esito del nostro aspirare alla perfezione. In questo senso Gregorio nel nostro capitolo si differenzia da certi uomini che, orgogliosi oltre misura dei loro successi morali, li attribuiscono solo a se stessi, non prendendo in considerazione la collaborazione di Dio. Della medesima opinione è Sant'Agostino che dice, citazione, «Nam quedam acutissima et excellentissima ingenia tanto in maiores errores hierunt quanto prefidentius tamquam suis viribus cucurerunt nec supplicita acveracita Deum ut viam sibi ostendaret petiverunt». Si noti qui l'allusione a Romani 9 verso 16, citazione che si trova a prescindere dal passo gregoriano, ad esempio in Origine dei Principis, libro terzo, brano da paragonare col nostro, o anche in San Girolamo, epistola, lettera 130, citazione, Ubi autem gratia non operum retributio, sed donantis est largitas ut impleatur dictum apostoli, non est volentis neque currentis, sed miserentis Dei. Et tamen velle et nolle nostrum est. Ipsum quoque quod nostrum est sine Dei miseratione non nostrum est. Per ritornare allora all'inizio del capitolo 13, cioè al nostro argomento dei tre diversi gruppi di uomini proposti dagli eretici, benché il teologo rifiuti questa differenziazione antropologica, ispirata forse dagli alessandrini o in fondo forse perfino dai platonici, egli non trova nulla di male a servirsi, ciò nonostante, proprio della terminologia di questa differenziazione, come nel Carme 1.2.34, definiziones minus exacte, ho psychikos d'anthropos ut epokalos, ho psychikos de kailian patus philos, ho pneumatikos du makran du pneumatos. Come spiegare questa contraddizione o incoerenza manifesta, o dobbiamo dire piuttosto apparente? Io credo che troviamo la chiave per risolvere il problema in un passo di Gregorio di Nissa nel suo Antireticus adversus Apollinarium, dove il Niceno impiega lo stesso tipo di classificazione con quasi gli stessi termini, ad eccezione del primo, coicus, in luogo del quale Niceno utilizza il sinonimo sarkinon, e precisamente oidegar, cioè l'apostolo, e keitina sarkinon anthropon, kai pneumatikon palin heteron, kai diamessu don dio don psychikon. La citazione del passo paolino si riferisce, come notano gli editori, ad locum alla prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, 15. Essa serve a Gregorio per consolidare la sua interpretazione e simultaneamente per annientare quella sbagliata di Apollinare del brano paolino, letta ai Tessalonicesi, capitolo 5, verso 23, il quale fu spiegato da Apollinare in modo non ortodosso, nel senso che l'uomo sarebbe costituito da tre parti indipendenti, cioè da pneuma, onus, psiche e soma. Esse verrebbero santificate o premiate da Dio, sì, ma ciascuno per sé e diversamente, e se questa conclusione è lecita, in modo graduato, essendo del resto il pneuma l'unico elemento adatto e ammesso a venerare Dio. Non voglio impegolarmi nel complesso delle difficoltà degli aspetti cristologici che Apollinare connette al suo modello antropologico, per cui confronta E. Mühlenberg Apollinaris von Laodicea, Göttingen, 1969, e particolarmente pagina 162 seguenti, a proposito di Matteo 19, versi 10 fino 12. Questo tra parentesi. A tale punto di vista Gregorio obietta che l'intenzione del passo paolino è la preghiera che Dio santifichi gli uomini interamente o nella loro totalità per quanto riguarda i loro elementi costituenti, e lo dimostra e lo illustra con le citazioni sopra menzionate dalla prima lettera ai Corinzi. Precisa poi Gregorio che per sarkinon anthropon Paolo intende l'uomo passionale e canale, per pneumatikon quello che non è gravato dal carico o peso del corpo, ma i cui pensieri sono sublimi. Finalmente, per psichicon, colui che non è esattamente né l'uno né l'altro, avendo qualcosa in comune con ciascuno degli altri due. Ma questa differenziazione, Gregorio continua, non vuol dire che un elemento non abbia niente a che fare con l'altro. Le denominazioni si spiegano in base dalla parte predominante di questi tre gradi presenti in ciascun uomo e disponibili a essere suscitati dalla volontà, o come dice Gregorio, al ectu pleonazontos das eponimias das pro eresisi. Ecco il concetto principale e fondamentale della nostra discussione di Tetae. La differenziazione dunque è legittima secondo il Niceno e anche secondo il Nazianzeno solo se si basa sull'importanza della proeresis e della politeia, modo di vivere o condotta di vita, come il suo risultato concreto. Conformemente a ciò, i pneumatici, ad esempio, si chiamano così diato ypsilon des politeias. Ma il diritto a perfezionarsi per mezzo della virtù non si limita, come il Niceno seguita ad argomentare, ai soli pneumatici. Anche gli altri possono aspirare alla perfezione, perfino se si occupano di banali affari terreni, come Gregorio sottolinea con riferimento alla prima lettera ai Corinzi. Secondo l'opinione ortodossa, dunque, la tripartizione degli uomini ha da intendersi come pertinente al campo della dottrina sulla virtù e sulla perfezione, nel senso che esistono tre gradi di anapasis morale e spirituale, alla quale esorta il Nazianzeno, servendosi di un'espressione biblica, ad esempio nell'orazione 40, capitolo 34, così: monon. Monon ai philoponei ten katasin, anapaseis ente cardia ditemenos. E risaputo che già Filone tale santria distingue tra anfänga, fortschreitente e volendete riguardo alla virtù, confronto früchtel di cosmologischen Vorstellungen bei Philo von Alexandrie, Lovania, 1968. A proposito di agricoltura, soltanto a questo riguardo la tripartizione secondo gli ortodossi è giustificata, opinione del resto che il Nazianzeno nel nostro passo da cui siamo partiti, cioè orazione 37 capitolo 13, non esprime esplicitamente ma certamente sottintende. Non legittima però è questa differenziazione sul piano antropologico, come volevano evidentemente alcuni gnostici e eretici. Grazie. Dunque i padri della Chiesa erano monaci e non si occupavano del materiale.